Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Anche noi questa mattina siamo in diretta qui dalla 25esima edizione del Salone del Libro di Torino. Radio 24, e sapete, è presente per diverse giornate a questa manifestazione. Abbiamo iniziato questa mattina con la diretta con Gianluca Nicoretti, siamo andati avanti poi con Nicoletta Carbone, ci siamo anche noi oggi di Salva Danaio per parlare come sempre di risparmio della famiglia, di abitudini di consumo oggi in particolar modo. Questa edizione del Salone del Libro guarda al futuro, o forse sarebbe meglio dire anche al presente, perché l'editoria, la letteratura, come sappiamo oggi, sono proiettati in un mondo fatto di nuovi strumenti, di nuove forme di fruizione e una possibilità di scelta decisamente amplificata. Grazie tutto questo anche alle nuove tecnologie che cambiano il modo di leggere, di scegliere e anche di comprare. Noi oggi a Salva Danaio appunto prendiamo spunto dal tema del salone, la primavera digitale, la vita in rete, e lo facciamo esplorando i cambiamenti nelle abitudini di acquisto e nelle occasioni di risparmio che sempre più frequentemente i consumatori trovano nel mondo del commercio su internet. Librerie online, ma non solo, sono tantissimi gli acquisti che si possono effettuare comodamente seduti da casa, un mondo in espansione che però, lo sapete perché anche questo è un argomento che abbiamo affrontato tante volte a Salva Danaio, non manca di suscitare qualche dubbio fra la platea dei destinatari, perché soprattutto gli italiani magari così amano la comodità di fare gli acquisti comodamente dal divano di casa, poi però fanno un po' più fatica ad utilizzare la carta di credito per operare appunto queste transazioni commerciali. Allora cercheremo di capire se il terreno è favorevole a questo cambiamento nel nostro paese, cosa è successo negli ultimi anni, cosa potrà accadere. Per fare questa chiacchierata abbiamo coinvolto qui al Salone del Libro due persone che ne conoscono molto bene questo argomento. Peraltro lo stand di una delle società che abbiamo chiamato è proprio qui vicino a noi, ne siamo molto contenti. Martin Angioni, Country Manager di Amazon Italia, qui alla mia destra, benvenuto. Buongiorno. Amazon la conosciamo perché è la più grande libreria online, anche se per la verità la sua esplorazione sul mercato italiano è avvenuta solo di recente, da un paio d'anni hanno iniziato la loro avventura appunto mesi. In Italia 18 mesi, un anno e mezzo, quindi ancora meno, e allora ci deve raccontare, poi lo farà, che cosa ha trovato, cosa spera di trovare in Italia appunto, e che tipo di consumatori anche sono quelli che cercano e fanno le transazioni commerciali sul vostro sito, che poi immagino saranno anche quelli che fanno invece un uso piuttosto frequente del commercio elettronico. Alla mia sinistra Vincenzo Russi, direttore generale di Cefrial, che è un centro di ricerca e formazione nei settori dell'information e communication technology. Buongiorno. Buongiorno a voi. Quindi insomma dal punto di vista scientifico conosceremo un po' questo fenomeno, che cosa ci può raccontare relativamente appunto al nostro paese. Voglio cominciare subito con lei. Mi sono raccomandata col dottor Russi di utilizzare terminologia molto semplice per i nostri ascoltatori, che già si indispettiscono quando, parlando di borsa e finanza, parlo di FTSE MIB, di spread. Purtroppo non posso utilizzare altri termini perché ormai sono diventati termini con i quali abbiamo una grande familiarità e dimestichezza, però per quello che riguarda la tecnologia forse ancora qualche passo avanti nel nostro paese dobbiamo farlo. Ma senta un po', quando io parlo di commercio elettronico e di nuove abitudini dei consumatori, che tipo di trasformazione ha avuto il nostro paese di recente? C'è stato qualche fermento interessante, oppure ancora il tema della carta di credito che dicevo prima, o del fatto che magari molte persone immaginano che queste transazioni commerciali possano non andare a buon fine, limita ancora lo sviluppo di questo mercato? Beh, allora, prima di tutto forse vale la pena fare qualche considerazione sui numeri per quanto riguarda i device. Quello che noi abbiamo verificato, o che immaginiamo... Le devo fare subito la prima traduzione, lo sa? Device, dispositivi digitali con i quali interagiamo. La ringrazio per mi interrompo. Faccio un po' la maestrina stamattina. Assolutamente. E quindi parliamo, come dicevo, di dispositivi digitali con i quali interagiamo. Per quanto riguarda questo, vale la pena forse dare qualche riferimento. Ci aspettiamo alla fine di quest'anno, cioè del 2012, un numero di smartphone che supererà probabilmente i 32 milioni. Gli smartphone, se devo tradurli, lo faccio pure. I nostri telefoni mobili, diciamo, di ultima generazione, con i quali in realtà facciamo molto di più che telefonare. Anzi, come dico io, la telefonata o il telefono è una delle applicazioni, delle tante applicazioni che utilizziamo su questo dispositivo digitale. Dall'altro abbiamo davanti a noi un numero di tablet particolarmente importante, di nuovo previsto per la fine di quest'anno, che toccherà probabilmente i 2 milioni e mezzo. Queste sono le previsioni. Se si confermano queste previsioni, comprendiamo che c'è già un fenomeno estremamente importante dal punto di vista dei numeri con i quali quindi l'italiano interagirà con chi offrirà prodotti e servizi ed eventualmente l'esperienza di acquisto. Quindi, diciamo, rispetto intanto ad un confronto internazionale, sono tassi di crescita che possiamo ritenere soddisfacenti date le peculiarità del nostro mercato? I tassi di crescita direi decisamente di sì. Se poi penso agli smartphone, non c'è dubbio che qui siamo probabilmente tra i paesi che mostrano una tendenza che è di gran lunga superiore a tanti altri, ma anche per i tablet l'accelerazione è notevole. E sui tablet naturalmente ci aspettiamo molto dai nuovi dispositivi, ma poi naturalmente ci sarà Martin Angioni che parlerà molto, immagino, dei prodotti che loro stessi stanno lanciando sul mercato, prodotto che tra l'altro, io vorrei citarne uno che non è sul mercato italiano, parlo del Kindle Fire, a meno che non venga smentito da Martin Angioni fra poco, il Kindle Fire, che è un prodotto, è un tablet che quindi assomiglia, mi fate semplificare in questi termini, assomiglia all'iPad, anche questo non devo tradurlo perché oramai è un termine che conosciamo se tutti. Se non altro per quello che è successo a Steve Jobs, diciamo che ci siamo sicuramente entrati tutti ormai nella mentalità del tablet. Ecco, e il Kindle Fire sta in questo momento riscuotendo un successo straordinario negli Stati Uniti, tra l'altro rappresentando probabilmente una delle tecnologie che sfiderà la tecnologia iPad. Certo. Cosa vuol dire tutto questo? Che appunto c'è un fermento che continua a crescere, ci sono prodotti che stanno arrivando, i prodotti dell'Amazon, ma anche tanti altri prodotti si stanno avvicinando. Questo renderà sempre più familiare l'accesso ai contenuti, ai servizi e l'acquisto su questi. Sottolineo una cosa, ma ne parleremo nel corso dell'incontro. Come si semplificherà questo? Grazie a un'esperienza che dovrà essere coerente con quello che il consumatore si aspetta. E questo è un concetto estremamente importante, almeno secondo noi. Da questo punto di vista devo dire che Amazon dal 2007, dal lancio del Kindle 1, lo ha seguito con grande enfasi e lo ha seguito con estrema attenzione, perché effettivamente ha trasferito un'esperienza di acquisto che è particolarmente semplice, rompendo, distruggendo tutte quelle barriere che citava lei. Allora, io sono partita a tamburo battente con la trasmissione di questa mattina, non ho ricordato che c'è sempre, come al solito, l'opportunità sia per gli ascoltatori che ci seguono da casa di interagire con noi, che ci possono chiamare all'800 24 00 24, ci possono scrivere al 349 238 6666 se siete appassionati dell'argomento di questa mattina. Però siccome siamo di fronte ad un pubblico anche qui al Salone del Libro, io vorrei coinvolgere anche nella massima misura possibile tutte le persone che sono venute qui a seguire Salva Danaio. Raccontateci se vi mettete sul computer almeno una volta al giorno per pensare o immaginare di fare un acquisto online, oppure se lo fate perché banalmente vi serve il conto corrente online e da lì fate tutte le vostre operazioni, se queste nuove abitudini di fruizione di servizi di vario tipo, se queste nuove abitudini di consumo vi hanno cambiato la vita, ve l'hanno semplificato oppure ve la complicano. Quindi raccontatecelo, perché ci confronteremo con i nostri ospiti. Martin Angioni, ce la fa vedere questa scatoletta di cui abbiamo parlato? Non possono vederla gli ascoltatori che ci seguono da casa, però possono farlo appunto le persone che sono qui con noi, se la alziamo, perché abbiamo già una versione numero 5, da quello che ho capito dal ragionamento di Russi, che è diffusa in America, è il Kindle questo, sì, dove possiamo leggere... Questo è in realtà in vendita qui in Italia, ed è il Kindle Touch, che è stato lanciato... Da pochissimi giorni, sì, credo. Sì, disponibile dal 20 di aprile più o meno. E acquistabile sul sito, acquistabile anche in vari negozi fisici, e rispetto alle versioni precedenti è scomparsa la tastiera e c'è un tasto nel tasto casa home per andare all'indice di tutti i libri che si sono acquistati, che sono su Kindle, ha uno schermo di 7 pollici e leggero, circa 600 grammi. È poco più grande di una delle vecchie calcolatrici, praticamente quasi grande come uno dei primi telefoni cellulari, beh forse erano un po' più stretti naturalmente le sì. prime versioni, però per rendere l'idea a chi ci segue da casa di che cosa stiamo parlando, con questo strumento noi possiamo leggere i nostri libri, ma sì. non vi sembra un po' di venire a profanare un ambiente... Perché qua, insomma, comunque è il salone del libro dove si continua ancora a vendere il libro tradizionale. Sì, non è, insomma, non c'è nessuna rivalità, non c'è nessuna competizione, diciamo. Poi alla fine credo che tutti comprino sia libri di carta che libri di questo tipo. Tra l'altro questo è uno schermo in bianco e nero, non retroilluminato, e che non va bene, ad esempio, per i libri illustrati a colori. Quindi, insomma, certi libri ancora qui sopra non si leggono bene, non si possono leggere, quindi... Ma comunque non è alternativo, diciamo che ha alcuni vantaggi, alcune comodità. I libri qui sopra costano un po' meno di quelli di carta. Ecco, infatti, c'è... perché lei sa che qua dobbiamo subito concretizzare questi sì. aspetti a Salvadanaio, parlare proprio di soldi, poi mi dice che sì. differenza di prezzo c'è. Però sicuramente il vantaggio è che pesa molto meno portarseli in giro. Quelli che sono inseriti. Questo contiene fino a 3.000 libri, e adesso qui non ne ho tanti, ne ho 49, e comunque... si scaricano immediatamente. Io adesso, poco prima che iniziasse la trasmissione, ho scaricato un libro che è stato pubblicato oggi proprio qui su Kindle, di Curzio Maltese, un viaggio intorno dentro la crisi della Lega, e credo in 10 secondi, in 5 secondi ho scaricato il libro e posso iniziare a leggerlo. L'ha scaricato e pagato contestualmente lei? Sì, io ho un account come tutti i clienti di Amazon, hanno un conto con Amazon che funziona sia sul sito per gli acquisti fisici, libri fisici per esempio, che io continuo a comprare in grande abbondanza, sia su Kindle, e con un click si completa l'acquisto, quindi è istantaneo. Ecco, diciamo. Abbiamo già capito qual è il senso intanto di questa rivoluzione. Io sono in treno, mi viene una voglia insopprimibile certo. di leggere un libro, chiaramente non posso scendere al volo, catapultarmi fuori da qualsiasi stazione per andare in una libreria, adesso le feltrinelle sono in tutte quante le stazioni d'Italia, prenderlo, ma posso con questa scatoletta, che io certo. continuo a chiamare così in maniera impropria, magari la offendo anche. Però immediatamente pago, il menu, acquista nel Kindle Store. Ecco. Adesso lui si collega, ci metterà un po', però insomma posso accontentare il mio desiderio di crescita culturale ed intellettuale. Più di 1.000.000 di titoli sempre disponibili. Il certo. grande vantaggio rispetto per esempio ai titoli in lingua straniera, libri tedeschi, libri spagnoli, francesi, americani, sono disponibili tutti e a prezzi non confrontabili. Diciamo che fino a pochi anni fa c'erano gli importati. Ecco, questa è la libreria, diciamo, è il menu principale. Io la sto vedendo naturalmente, quindi vorrei anche renderla fruibile, sì. però insomma ho una schermata dove ho intanto tutti gli ebook, diverse opzioni. Letteratura, narrativa, ebook in italiano, ebook in straniero, libri per bambini, gialli e thriller, poi in evidenza, e poi ci sono i libri consigliati e si vedono le copertine dei libri. Quindi allora, ammettendo di voler comprare, vieni via con me di Roberto Saviano, che io adesso vendo. Richiamo la copertina, posso fare immediatamente Non è ancora collegato. Ammettendo che lo fosse, vediamo, faccio l'ordine, adesso, me lo fa scaricare. Ha bisogno della mia carta di credito per fare questo? In corso. No, il conto è già registrato. Nel momento in cui ricevo Kindle lo accendo e dice benvenuto Martin. Chiunque abbia già un conto con Amazon compra un Kindle, lo compra sul sito, gli arriva a casa nel giro di 2-3 giorni, quando lo accende lui già sa che è il Kindle di Martin. Sì, ma come si fa a pagare questa transazione? No, si paga sul sito. Uno lo acquista sul sito, lì ha già il suo conto, ha già la sua carta registrata e tutto. Quindi quando viene mandato il Kindle a chi l'ha acquistato, Kindle sa già di chi è. E quindi quando la gente c'è un prelievo comunque dalla carta di credito, da dove? Ecco, questo. La carta registrata sul non sito. So quanto costa il libro di Roberto Saviano, ammettendo che costi 15, 18, 20 euro, qual è la differenza di prezzo fra la versione cartacea e la versione online? La versione cartacea, diciamo che mediamente la differenza di prezzo è tra il 30 e il 50%. Cioè un libro, un ebook rispetto a un libro di carta non ha costi di stampa, di magazzinaggio, di spedizione, di rese, insomma mandare in librerie, far ritornare, insomma c'è una serie di costi che decadono, e quindi è evidente che insomma ecco qua, questa è la pagina di dettaglio. Benissimo. Vieni via con me, 9,99 euro. Se io schiacciassi compra l'avrei acquistato originariamente, e... il libro costava molto meno dato un prezzo che era assolutamente fuori. Bene, io con questo esempio spero di averlo fatto capire di che tipo di rivoluzione stiamo parlando questa mattina. Poi ci sono gli irriducibili ovviamente della carta, quelli che amano addirittura il profumo della carta e che non rinuncerebbero mai ad un libro acquistato in libreria portato a casa, e naturalmente c'è chi invece è assolutamente portato e pronto per una rivoluzione di questo tipo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, oggi siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino e abbiamo cercato anche noi di individuare un tema che potesse sposarsi bene con la missione, con lo spirito della nostra trasmissione, che in genere è quello di occuparci delle famiglie, delle loro, del loro bilancio familiare, il bilancio economico naturalmente. Allora parliamo di lettura, visto che il tema del Salone del Libro è la primavera digitale, e cerchiamo di capire come si può risparmiare anche per gli appassionati della lettura utilizzando le nuove tecnologie, quindi al posto del libro fisico, speriamo che nessuno si offenda in questo ambiente naturalmente, ma in realtà la rivoluzione della quale stiamo parlando è perfettamente concordata anche con i grossi gruppi editoriali, e quindi appunto parliamo di letture veloci da poter fare utilizzando le nuove tecnologie, il Kindle in particolar modo, che è la nuova struttura, non tanto nuova perché ormai gli appassionati la conoscono da qualche anno, che presenta Amazon, che è la più grossa libreria online. Tra l'altro, Martin Angioni, dando un'occhiata anche al vostro sito, noi oggi abbiamo parlato di libri perché siamo al Salone del Libro, ma oggi su Amazon si può trovare di tutto. Come è avvenuta la vostra conversione da libreria online a sito che vende anche articoli per il giardinaggio, scarpe, borse, orologi? Perché è un acquisto che funziona, è un acquisto molto conveniente, molto pratico, è facile trovare gli articoli che si cerca e soprattutto il sito è molto ricco di informazioni e di consigli per gli acquisti dati da altri acquirenti e da altri utilizzatori. Quindi ci sono spesso, non so, se uno compra un tosaerba e non ha mai comprato un tosaerba, va nel sito, si sceglie il toserba che pensa gli possa piacere, poi si va a leggere tutte le recensioni e vede altre 15 persone come hanno utilizzato. Recensioni pubblicate sul Kindle magari? No, pubblicate sul sito, per ogni articolo ci sono tante, tutte le televisioni o giradischi o macchine fotografiche. Poi magari ritorniamo sul tema complessivo del commercio online. Rimaniamo alla lettura perché c'erano delle persone dal pubblico che volevano intervenire, poi sentiamo anche gli ascoltatori che ci hanno chiamato da casa, Davide e Antonio, a cui chiedo un minutino di pazienza, ma vorrei coinvolgere il pubblico di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, la mia domanda è: ho comprato il Kindle un anno fa in Inghilterra. A me piace molto leggere in francese, si sentirà un po' dall'accento, sì, probabilmente. Sì, avevamo avuto questa intuizione. Ecco, io vorrei sapere come devo fare. Esempio, voglio leggere un libro di Robin Cook in francese. Devo andare su amazon.fr? Cioè, non sono stata capace, guardi, è una cosa fantastica, però non sono capace a usare. Allora, da quello che ho capito, intanto quanto costa il Kindle, Mangioni? Costa 99 euro. Comprandolo su Amazon, però. Di base, poi c'è un altro 129 euro, che è quello Touch Wi-Fi. E poi 179 euro per capire 189 euro se qualche mamma e papà fossero all'ascolto e volessero fare questo investimento per la famiglia. Allora, la signora vuole leggere dei libri in lingua francese, allora, può farlo? Se lei è in Italia deve registrare il suo Kindle sul Kindle Store italiano. Quando entra nel Kindle Store italiano c'è una... Scusi, il fatto che l'ho comprato in Inghilterra non c'entra niente? No, non c'entra niente. Entra poi nella libreria e c'è una sezione della libreria che si chiama ebook in lingua straniera. Lì dentro ci sono libri in tedesco, in francese, in spagnolo e in inglese, e quindi trova i libri in tutte le lingue. Io ho appena scaricato dei libri in tedesco, quindi che funziona assolutamente. Guardi, allora, provo stasera, se non funziona sono di nuovo qua domani, sì, con il mio Kindle. Qui domani. No, va bene, esatto, grazie. Pure scriva a noi che lo prendiamo poi e portiamo nella mente. Allora, ci sono tanti ascoltatori che stanno scrivendo un tema che noi affrontiamo generalmente a settembre, quando le famiglie devono prepararsi per il corredo scolastico dei ragazzi, e lì sì che sono dolori. E oltre che per la schiena dei ragazzi che devono portare un sacco di libri ancora nelle cartelle, negli zaini, ma soprattutto sono dolori economici. Allora, siccome ci stiamo convertendo alla editoria digitale, vogliamo cercare di capire se c'è anche in previsione un futuro a breve che possa dare la disponibilità alle famiglie di acquistare libri in versione telematica. Prima chiedo al professor Vincenzo, l'ho chiamata professore, ho fatto bene lo stesso? Sì, nel dottor senso Russi, che insegno anche, ecco, quindi, all'MBA del Politecnico di Milano, ma non sono andata professore. Bene, ecco, nonostante non mi ricordassi. Ma preferisco lasciare. Allora, questa mi sembra di capire che, per quanto possa essere auspicabile in termini generali questa rivoluzione, soprattutto auspicabile per i bilanci delle famiglie e per la salute dei nostri ragazzi. Anche se quando faccio questa trasmissione qualche volta intervisto dei presidi che si inalberano un po' rispetto a questa rivoluzione, perché loro dicono: ma vuole mettere col profumo della carta, del vecchio libro di storia, perché dobbiamo comunque introdurre questa rivoluzione nel mondo della scuola? La scuola ha un altro spirito, un'altra filosofia, però insomma, se costassero un po' meno anche i libri scolastici. No, non c'è dubbio, e non c'è dubbio che probabilmente possono costare, da una parte possono costare meno, dall'altro non c'è dubbio che si deve immaginare un nuovo modo di insegnare, un nuovo modo di far fruire la cultura che viene dalla scuola. Questo è un tema estremamente dibattuto. Da una parte l'utilizzo, e sono state fatte alcune sperimentazioni, in particolar modo come al solito negli Stati Uniti, alcune di queste sperimentazioni non hanno dato grande successo. E questo perché, al di là adesso del profumo della carta, che probabilmente appartiene più a una generazione come la mia, probabilmente perché c'è di nuovo un'esperienza di uso della carta o degli strumenti didattici da parte degli studenti anche, ma molto anche da parte dei docenti, non dimentichiamolo, che ci impone di utilizzare appunto la carta, e quindi ci viene difficile, se non cambiano un po' tutte e due gli approcci, quindi quello della docenza che deve insegnare sapendo di avere a che fare con degli strumenti di tipo digitale, e dall'altro gli studenti che a questo punto utilizzano al meglio questo tipo di tecnologie, poter fruire di contenuti, di informazioni, e poter imparare, certo, in una maniera completamente nuova. Pensi che rivoluzione sarebbe andare a scuola con quello dove dentro ci sono le lezioni di storia, di matematica, di fisica? Certo, non solo, ma si aprono anche nuovi modi, comprendiamo tutti che si aprono nuovi modi, da una parte di insegnare, perché chi dice che insegnare diventa un'operazione fatta dal docente nei confronti di un'aula, o che invece non si apra anche qui un modo sociale, una forma di costruzione della cultura che viene da più partecipanti, da partecipanti che non necessariamente sono nell'ambito, nello spazio e nel tempo lì collocati all'interno dell'aula. Si stanno facendo degli straordinari sperimentazioni, in particolar modo di nuovo in alcune università statunitensi, in MIT ad esempio, a Stanford, ma anche in Italia, il Politecnico di Milano lo sta facendo da questo punto di vista, alcune sperimentazioni che mostrano che si può cambiare e si può ottenere davvero un grande valore da tutto questo. Poi non dimentichiamo, come diceva lei giustamente, la dimensione dei libri, il costo, il peso. Sono tutti elementi che credo a questa trasmissione interessino molto. Allora, un paio di domande, certo, Angioni. No, per non parlare sempre solo del presente e delle nostre cose, però tutte le volte che c'è un salto di tecnologia, un progresso che avanza, è sempre dirompente ed è sempre rifiutato. Nel 500, quando arrivano i primi libri di carta a Venezia, che è la principale città per i libri insieme ad Amsterdam, tutti gli aristocratici vanno avanti per 200 anni a farsi fare libri di pergamena, perché il libro di carta era ritenuto una cosa vile, però una cosa. Eravamo già lontani dalla pietra. Aveva la bellezza e la nobiltà del libro di pergamena, identico ad oggi con questa storia qui dei tablet, certo, e dei libri di carta. Nel 1000 avanti Cristo, narra Platone, mi pare nel Fedro, il faraone, un greco arriva dal faraone e gli propone questa grande invenzione che è la scrittura. Il faraone dice che ci pensa su e si prende 2 settimane per pensare se questa cosa della scrittura conviene o non conviene. Torna indietro da questo greco e gli dice: no, ho deciso che la scrittura non va bene, preferisco di no, perché se noi introduciamo la scrittura la gente smetterà di ricordare. Eccoci qua. La scrittura era una tecnologia, era un progresso della tecnica. Un uomo così tecnologico come lei, che ci fa fare questo incredibile salto nel passato, pazzesco. Allora, noi dobbiamo fermarci ancora, perché ci sono i suggerimenti, perché in viaggio devo sentire altre persone tra il pubblico, ci sono anche tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo. Che autonomia ha la batteria del Kindle? 2 mesi. 2 mesi, quindi questo è per Sergio che ce l'ha chiesto. C'è un altro ascoltatore che però ci chiede: Gian Pietro, sono 2 mesi che aspetto un libro ordinato su Amazon, ancora non arriva, cosa gli è successo? Questo se l'è perso da qualche parte. In rarissimi casi può succedere. Può succedere anche a voi. Dopo un po' cancelliamo, se non riusciamo a procurarlo, dopo un po' cancelliamo, però sono casi veramente rari. Su milioni di spedizioni. Ci scriva una mail che cercheremo di ritracciare il percorso fatto dal, certo, suo libro. Non si perde nulla. A tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, prima di sentire, mi uccideranno, Davide e Antonio che sono in collegamento telefonico, voglio far interagire con noi 2 colleghi giornalisti che sono qui tra il pubblico. La prima è Francesca Sassoli, quindi chiedo alla nostra Laura Vanossi se passa il microfono alla collega. Francesca l'abbiamo intervistata qualche mese fa, quando si stava accingendo a fare una rivoluzione della propria vita, un po' professionale ma anche personale, perché per qualche mese si è cimentata in una vita totalmente digitale, telematica, non saprei, Francesca, come definirla. Ci puoi risintetizzare di nuovo il tuo esperimento? Come si è concluso, peraltro, perché insomma tu ti sei a un certo punto chiusa in casa e facevi tutto quello che dovevi fare questo, davanti al computer. No, ma questo è l'errore di base, nel senso che non mi sono chiusa in casa, anche perché l'online ti permette con i nuovi device, appunto i tablet, i telefonini intelligenti, di essere ovunque a fare le cose che vuoi. Quindi il mio esperimento è stato di 12 mesi, quindi un anno intero, ho coinvolto mio figlio piccolo, il mio cane, ma nessuno dei due se ne è accorto di questo cambiamento, anche se non in meglio, nel senso che comunque non costringere il bambino piccolo ad andare nel supermercato a fare la spesa è una cosa bellissima, come non dover far shopping, riuscire a far tutto nelle ore magari in cui lui dormiva, oppure usare il tempo libero in una maniera diversa, perché comunque ti dà molta libertà. Ma nel tempo libero andavi a comprare libri normali oppure ti sei convertita alla lettura digitale? Allora, devo dire che mi sono convertita, ma io amo pensare che sia nel commercio elettronico che nella lettura virtuale ci sia sempre un momento di incontro, nel senso, sono in viaggio, invece di portarmi centinaia di libri che mi pesano, mi porto il e-reader, il Kindle, e quindi sono facilmente così facilitata da questo, oppure spero che mio figlio non si debba mettere lo zaino con la scoliosi già integrata con tutti i libri, ma abbia un Kindle o qualcosa, insomma, dove poter leggere tutto. Magari invece in casa mia mi prendo un libro fisico e mi leggo il libro fisico. Perché le due cose non possono coesistere, no? Quando, quando c'è stata l'invenzione della TV doveva scomparire la radio, e tutte e due sappiamo che è una cosa qua, che assolutamente siamo vivi vive e vegete. Ecco, quindi io penso che le cose possano coesistere, che per ogni momento ci sia un supporto giusto. Se voglio vado nel mio baretto di quartiere, nel mio negozietto a fare la spesa, ma se voglio comprare qualcosa di pesante, di ingombrante, non ho tempo, lo compro online. Le due cose devono integrarsi. Spesso sono le persone più resistenti quelle che potrebbero avere più benefici, perché penso a una persona anziana che si fa recapitare la spesa, non deve fare la coda alla posta per un bollettino, perché no? L'online può essere veramente utile per tutti e si risparmia, quindi il tema della famiglia e del risparmio su tantissimi prodotti, esatto, c'è. Poi qualche volta si guarda prevalentemente l'aspetto economico, risparmio economico, ma quanto tempo si può risparmiare utilizzando appunto procedure e abitudini diverse? Francesca, ti chiedo di passare gentilmente il microfono a un altro collega che è... Sì, mi voleva dire qualcosa Russi. Nicola Dante Basino invece, che è un collega, un ex collega del Sole 24 Ore, adesso fa prevalentemente lo scrittore. L'abbiamo coinvolto, è venuto a trovarmi perché ha scritto un libro che presenterà tra l'altro proprio in occasione del Salone, che si intitola Olio e Vino. Io lo volevo coinvolgere sul tema del commercio online dei prodotti alimentari, perché anche questa è un'abitudine diversa che i consumatori italiani stanno prendendo. Assolutamente sì, è un fenomeno nuovo. Inizialmente, parlo di 3-4 anni fa, era ancora molto difficile, si proponeva la vendita del commercio online dei prodotti agroalimentari ed era il consumatore era restio, e tuttora è restio, però si sta aprendo. Io ieri ero al Cibus, dove c'era proprio un dibattito sul commercio elettronico nel settore agroalimentare, e viene fuori che la gente si sta aprendo, sta perdendo, diciamo, quella difficoltà, quella diffidenza che aveva, perché i prodotti alimentari li vogliono vedere, toccare. E noi quindi, italiani, poi per carità. Però... Noi sì. Paradossalmente non sono tanto le grandi aziende che ne beneficiano del commercio elettronico alimentare, ma i piccoli e piccoli e medie, perché dotandosi dello strumento, diciamo, della vendita online, possono raggiungere immediatamente un pubblico molto vasto, e quindi automaticamente uno di Bolzano può comprare i pomodori di Pachino a Pachino, quindi lontano diciamo chilometri di distanza, e naturalmente il piccolo produttore della Sicilia non riesce ad arrivare o a mandare i propri prodotti a Bolzano. Però attraverso l'online c'è questo fenomeno in crescita, quindi è possibile fare, e si parla di un 7-8% di vendita attualmente di prodotti agroalimentari attraverso il sistema. Immaginiamo che potenzialità di sviluppo ci sono. Nicola, grazie, in bocca al lupo per il tuo libro. Naturalmente ci mancano 3 minuti di tempo, il tempo è letteralmente volato. Questa mattina sentirai un paio di ascoltatori da casa. Antonio d'Alessandria. Antonio, ci sente? Antonio è sparito, si è già stancato naturalmente. Allora noi andiamo all'Odi da Davide. Davide, ci sente? Allora no, abbiamo definitivamente stabilito che si tratta di una problematica di natura tecnica. No, il refresh sì, ma lo possiamo anche rifare, ma in ogni caso c'è Franco da Varese, infatti. Franco. Pronto? Franco, ci sente? Sì, vi sento, sì. Rapidissimo, grazie, che stiamo chiudendo. Volevo sapere se coi tablet è possibile sottolineare periodi o pagine. Io sono abituato col cartaceo a sottolineare i libri o a evidenziare cose che mi interessano. Non so se con i tablet e con il libro, diciamo, sottolineare ed evidenziare tutto. Sì, e allora... poi alla fine del libro può addirittura andare a rileggere solo le parti evidenziate del libro, per cui ritrova tutte le evidenziature e tutte le cose che ha, tutte le annotazioni che ha preso. Perché Franco, da Varese, se lo faccia un giro a Torino, venga a sperimentare magari come funziona un Kindle, e così può monitorare appunto se riesce a sottolineare le parti importanti. Perché nel libro scolastico o nella saggistica è importante sottolineare. Può anche prendere appunti, fare note e prendere appunti. Perfetto. Franco, quindi deve fare solo una prova. Grazie molte, grazie anche a lei. Abbiamo un altro nostro amico qui a Torino. Oh. Una sottolineatura veloce per quanto riguarda la tecnologia dell'inchiostro elettronico, è inutile sottolinearlo per gli esperti, però è fondamentale che non stanca la vista questo device praticamente, quindi a differenza delle apparecchiature retroilluminate, in questo caso c'è il cosiddetto inchiostro elettronico, quindi la fruizione, la lettura è come quella di un libro. Si spegne la luce e non c'è più il lettore, giusto? Me lo confermate? Al buio non si legge, ma si legge bene al sole, per esempio su una spiaggia, e non ha niente a che vedere con uno schermo retroilluminato. Questo strumento serve soltanto per leggere libri. Soltanto per leggere libri, il Kindle naturalmente. Non si fa nient'altro, ecco. Serve solo a quello. Per tutto il resto. Però si può stare 12 ore di seguito a leggere sullo schermo senza che gli occhi si stanchino. Senta un po', su Amazon troveremo presto anche vino, olio e altri, visto che già vi siete dati la moda, le griff. No, per adesso vedo per che scuote per ora. Commentare. Non può commentare, ma magari c'è qualcosa che bolle in pentola. Russi, concludo con lei, le assegno le conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo aperto 2 milioni di parentesi, ognuna avremmo potuto approfondirla naturalmente in maniera molto interessante, ma insomma la rivoluzione digitale è qualcosa di assolutamente inevitabile nella vita di tutti noi, riguarda soprattutto le giovani generazioni, ma un consiglio a chi è assolutamente resistente rispetto ad un cambiamento di questo tipo per le paure che dicevo prima? Ma io suggerisco di provarla. Alcune di queste tecnologie vanno provate. L'altra considerazione che faccio nell'esperienza, poco fa abbiamo parlato di poter acquistare dovunque, io acquisto dovunque nel mondo e questa è l'altra caratteristica, quindi una semplificazione che supera lo spazio e il tempo. Benissimo. E questa è un consiglio. Grazie, ed è anche l'oggetto, immagino, dei vostri studi universitari. Grazie a Martino Angioni di Amazon, Vincenzo Russi di Cefri, a tutti voi che avete partecipato, grazie molte. Salvadanaio domani torna regolarmente a Milano. Buona giornata a tutti.